Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia, siamo qui a parlare di sport anche oggi. Non c'è la Serie A, come sapete, domenica ideale per fare quattro chiacchiere tra amici. Vi aspetto numerosi, 800 24 00 24, perché i temi che comunque questi giorni, che comunque la settimana ci ha lasciato, anche la domenica ci ha lasciato e ci sta lasciando, sono numerosi. C'è contatto Facebook, la nostra pagina Tempo di Sport, il contatto Twitter, gli SMS 349-238-6666. Quindi se avete voglia, e spero di sì, di interagire con noi, avete tutti i modi per farlo. Di cosa parleremo? Beh, tanto per cominciare, di Formula 1, per l'ultima corsa stagionale, un raggio di sole per la Ferrari con il secondo posto di Alonso, Vettel che magari con la pancia piena va fuori, anche se è stato scagionato dal suo team, per quello che poteva sembrare un errore del mostruoso tedeschino. Quindi c'è la Formula 1, ma poi c'è anche tanto calcio con diversi ospiti che sono in scaletta. Però vi devo dire una cosa, perché naturalmente lo sport è bello, importante, ci teniamo compagnia di domenica, però i fatti che stanno accadendo in queste ore sul fronte politico sono, direi, ben più importanti. Quindi è in programma uno speciale su Radio 24, ora sono in corso le consultazioni, che termineranno alle 18, quindi può essere che le esigenze di cronaca portino questo importante speciale all'interno del nostro programma. Alle 20.30 invece torneremo per parlare di basket, e le 20.30 è l'ora di inizio della partitissima del nostro campionato con il Forum di Milano, come non succedeva da tempo immemore, finali scudetto comprese, tutto esaurito ormai da giorni, non c'è più un biglietto in giro per l'arrivo della Montepaschi Siena, con una Milano che ispira grande fiducia in questa stagione. Dunque, per la cronaca ci sono anche le straordinarie ragazze della pallavolo che questa mattina hanno battuto 3-0 la Serbia ed è l'ottava vittoria consecutiva in World Cup per le azzurre. Si spalancano al termine della prima fase, sono già anzi spalancate le porte delle Olimpiadi di Londra. C'è la Serie B in campo che oggi ha preso il centro del palcoscenico, quindi anche gli orari consueti della Serie A. Risultati in divenire, questi parziali ve li do così a un quarto d'ora circa dalla fine delle partite, con l'Ascoli che sta vincendo 1-0 a Brescia. Sono anche risultati abbastanza sorprendenti, 1-1 tra Cittadella e Livorno, certamente molto sorprendente nelle proporioni, è lo 0-5 del Varese sul campo del Grosseto. Sta vincendo anche Sassuolo a Gubbio 1-0, la Juve Stabia è 2-1 sull'Albino Leffe, Empoli in vantaggio 1-0 a Modena, ma soprattutto la Sampdoria sempre più in crisi, sta perdendo 1-0 in casa con il Vicenza, mentre il Verona conduce 1-0 con il Crotone. Poi vi darò naturalmente i finali. Intanto vado subito dritto sull'obiettivo Formula 1. La corsa di Abu Dhabi, penultima della stagione, con Hamilton che ieri ha acciuffato Massa nel record delle pole position stagionali, come sapete 14, ha acciuffato non Massa ma Mansell ovviamente. Ebbene, oggi è andato fuori Webber, Vettel, questa è la grande notizia. La corsa l'ha vinta Hamilton, che ieri era stato beffato dopo un weekend assolutamente da protagonista, era stato beffato dal mostruoso tedeschino sull'ultimo giro utile per la pole position. Oggi si è preso la rivincita, ha vinto la corsa, gara bellissima quella di Hamilton. Secondo Alonso, con grande soddisfazione alla Ferrari, Alonso che dice: ma senza tutto quel traffico avrei potuto anche vincere questa corsa. Terzo button sull'altra McLaren, quindi quarta l'unica Red Bull rimasta in pista, quella di Webber, davanti a Massa, a Rosberg, a Schumacher, ottavo Sutil sulla Force India davanti a Di Resta. Questo è l'esito dunque della gara di Abu Dhabi. Saluto e ringrazio Mario Poltronieri. Ciao Mario. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Mi spiegavi la settimana scorsa, così en passant di sfuggita, che il record delle pole position per gli almanacchi di storia è già comunque di Vettel, a prescindere dall'ultima corsa che potrebbe consegnargli la quindicesima pole. Sì, teniamo però presente, adesso io non ho fatto le proporzioni, ma teniamo presente comunque che le gare in cui sono 18 per Mansell erano 16, quindi c'erano due gare in meno per possibilità, però comunque, come dico, sono calcoli così tanto per chiacchierare. La gara secondo me in un ambiente scenograficamente direi eccezionale, per non dire anche un po' kitsch, però ha reso tutto sommato, perché sono stati giri veloci, le riprese erano molto belle, la penombra e poi la sera, insomma, diciamo. Beh, sai, che quando ti costruisci nel deserto una pista tagliata sulla Formula 1 attuale e non corri su una pista che invece ha fatto la storia, che magari può essere anacronistica per le macchine di adesso, è quasi normale che la gara sia bella tecnicamente, no? Certo. Comunque la prossima in Brasile, la conclusiva, torna su un circuito, chiamiamolo così, storico, classico, sì, con anche salite e discese, eccetera, eccetera. Beh, diciamo comunque che Vettel ha fatto questo errorino di finire sul cordolo e la gomma ha stallonato, quindi evidentemente l'ha presa nel modo sbagliato, perché molte altre volte è capitato di andare a finire appunto sul rigonfiamento del cordolo. Sai che Horner lo ha scagionato, ha detto la gomma era già lesionata e quindi è successo questo inconveniente. Può darsi effettivamente, per come è calata, può darsi che fosse effettivamente già lesionata prima. Beh, comunque sarebbe un grosso errore del team, sì, non essersene accorti. Sì. Ma diciamo, a parte questo zero appunto che fa effetto di Vettel, che non arriva nell'ordine d'arrivo, non c'è, direi che la gara è stata divertente. No, innanzitutto vorrei fare una lode particolare a Alonso, perché continua a fare delle corse di estremo rendimento in funzione della vettura di cui dispone. Quindi io credo che Montezemolo adesso ha voluto confermare Massa per l'anno 21. Massa, sappiamo, è un pilota velocissimo ma discontinuo. Alonso comunque ha dimostrato che può correre anche da solo, perché lui fa squadra. Quindi questo è un discorso. Sì, mi par di capire, ma questo lo sapevo già, che insomma, non sei così convinto della scelta della Ferrari di confermare Massa anche per la stagione prossima. Anche perché, onestamente, Mario, poteva essere il clima adatto dopo una stagione fallimentare, perché questa è l'aggettivo che bisogna usare. Poteva essere anche il momento giusto per cambiare un po' di più, no? Anche la seconda guida eventualmente. Ecco, bisogna sapere in realtà Alonso cosa pensa, perché Schumacher per esempio non ha mai voluto avere una seconda guida veramente forte. Io penso che Alonso sia dello stesso tipo, cioè vuole essere da solo. L'idea di riportargli, come è venuto fuori tempo fa, Button, che aveva gradito l'idea di essere alla Ferrari, e forse gli dà fastidio, perché Button oggi è arrivato terzo anche con una serie di situazioni, tra cambi uomini eccetera, favorevoli, ma partendo con un handicap notevole, e cioè non aveva il KERS, il recuperatore di energia cinetica, che dà quello spunto in più. Abbiamo visto qualche sorpasso di quelli ottenuti modificando l'incidenza del flap posteriore, cioè per rendere la macchina più veloce, e qui ribadisco, dal mio punto di vista è di un'antisportività unica. Sarebbe come se la corsa di 110 ostacoli, quello che è davanti a un certo punto, siccome è davanti, l'ostacolo gli si alza di 10 centimetri, di modo da consentire a quello dietro di passarlo, perché sì, in ciampa. Sì, non riesco a capirlo, francamente, ma perché è la caccia disperata a trovare il modo di dare, certo, spettacolo. Certo. Perché queste macchine, su un circuito soprattutto come questo, dove lo si vede lo schieramento in partenza, le coppie sono vicine, quindi non c'è una difficoltà di guida tale per cui il più bravo della squadra. E quindi serve il doping tecnologico, per produrre qualche sorpasso, che è molto bizzarro. Mario, sentiamo insieme un ascoltatore che è in linea, che vuole entrare nella discussione. Alfredo, Milano, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Salve. Buonasera, Poltronieri. Buonasera. Dunque, io volevo un vostro parere su una considerazione che un po' di tempo che faccio sulla Formula 1, cioè se sia uno sport che ancora attiri il grande pubblico. Se posso, tre elementi su cui baso questa considerazione. Il primo è la ricerca sempre di gran premi in posti tipo Roma, o si parlava di New York, così. Il secondo, le querelle sui regolamenti che ci sono ogni anno per aumentare lo spettacolo, dicono sempre, quindi sì, il KERS piuttosto che scariche, eccetera. E poi sentivo oggi un'intervista a Montezemolo che lanciava la Ferrari Academy per lanciare nuovi piloti, laddove molti degli ultimi piloti che sono venuti fuori, specie da paesi come l'India o la Russia, sono piloti che portano sponsor prima della loro bravura, certo, che poi in realtà sì, è relativa. Esatto. È una considerazione interessante, ma in parte quello che stavamo dicendo ora io e Mario Poltronieri, cioè c'è una ricerca disperata di spettacolarità, perché da questo punto di vista la Formula 1 è uno sport in crisi profondissima, ovviamente di nuovi mercati, e in questa chiave va letto un circuito come quello di Abu Dhabi, va letta l'espansione a mercati non classici per la Formula 1. Sentiamo insieme il traffico e poi le do una risposta di Mario Poltronieri, caro Alfredo. 800 24 00 24, poi torniamo. Se vuoi rendere più competitiva la tua azienda, se vuoi creare nuovi prodotti e avere un'organizzazione efficiente, devi formare i tuoi dipendenti. Il costo non è un problema, c'è Fondi Impresa, il fondo per la formazione continua di Confindustria, CGL, CISL e UIL, a cui hanno già aderito 80.000 imprese. Con i finanziamenti di Fondi Impresa, grandi e piccole aziende possono recuperare competitività a costo zero. Scegli l'innovazione, scegli anche tu Fondi Impresa. Tutte le informazioni su fondimpresa.it. Strade in diretta. Traffico rallentato lungo la 24 Roma-L'Aquila-Teramo a causa di un incidente avvenuto tra Carsoli Oricola e Vico Vero Mandella sulla carreggiata in direzione Roma. Rallentamenti sulla 4 Torino-Milano all'uscita di Biandrate in entrambe le direzioni per il traffico intenso. Sempre sulla 4 lungo il tratto milanese, code per il traffico alle uscite di Sesto, San Giovanni e Cormano sulla carreggiata verso Brescia. Code sulla 9 in direzione della Svizzera alla dogana di Como-Brogeda. Raccomandiamo la massima prudenza per le raffiche di vento, prudenza in particolare a chi viaggia in Liguria e al centro-sud tra Abruzzo, Molise e Puglia. Anticipiamo in chiusura i lavori sulla 14 Adriatica, l'autostrada chiuderà tra gli svincoli di Rimini in entrambe le direzioni dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Mario, cosa rispondi al nostro ascoltatore, ad Alfredo da Milano, che sottolinea come la Formula 1 sia comunque uno sport in grave e profonda crisi di appeal? Ma sai che questa è la mia teoria da 15 anni, credo ormai, e mi fa piacere che proprio Montezemolo, tra le varie cose che ha detto recentemente, noi non correremo più in Formula 1 se l'aerodinamica inciderà per il 90% sul risultato. Ma veramente era stato lui che aveva spinto per fare le gallerie del vento. Adesso non si possono più usare le gallerie del vento, non si può fare abbastanza prove perché costa troppo. La realtà è, non voglio essere esagerato, ma il tanto vituperato Mosley non aveva tutto i torti quando diceva cerchiamo di spendere meno, facciamo delle macchine più normali. Perché il vero problema è che queste automobili non possono essere più spettacolari perché hanno fatto delle scelte tecniche che portano a risultati vicini. Quindi se mi si misura il distacco in millesimi di secondo, vuol dire che non ci sono più margini, c'è il nanosecondo ma non è cronometrabile sulla pista. Quindi c'è qualche cosa che non va, ma purtroppo questa è la mia tesi, questa non è più una formula di ricerca, è una formula di ricerca del business. Sì, sicuro. E poi lo stesso Eccleston, già anni e anni fa, come tu hai ricordato, ha detto bisogna andare a Oriente perché voi europei, come se lui fosse un indiano, voi europei non siete il terzo mondo ormai, sì, e forse il quarto. Quindi io penso che lui cerchi esclusivamente, come è stato per il discorso di Roma, dove può fare spettacolo, dove può fare pubblico, dove può fare soldi, Mario, cioè, saremo il quarto mondo, soprattutto stiamo diventando sempre più poveri, quindi Eccleston che non è fesso o non è pirla come direbbe Mourinho, va dove c'è il grano, quindi a Oriente piuttosto che in Russia, piuttosto che ad Abu Dhabi, sì, però, e va alla ricerca del dollaro, questo è evidente. Certo, però proprio nei momenti di crisi bisognerebbe ripensare. Cioè, l'automobile e la corsa è nata sì per il divertimento nel 1800, per il divertimento di pochi, ma poi col tempo si è manifestata e dimostrata indispensabile per lo sviluppo della vettura di serie. Sì, sì, sì. Qui ormai noi abbiamo un aeroplano rovesciato, perché la Formula 1 è un aeroplano rovesciato, che non dice assolutamente niente per l'auto normale, perché l'auto normale non avrà mai questo tipo di aerodinamica. Certo, certo. Infatti io ricordo ancora quello che è stato il gran capo della Michelin nel momento aureo della Formula 1 con le gomme francesi, che alla domanda ma la Formula 1 quanto dà alla vettura di serie ha risposto il 10%, e alla rally il 40%, e la moto da corsa dà l'80%. Sì. Insegnamenti per il prodotto. Sì. Perché? Perché la moto da corsa non è aerodinamica. Certo. Cioè non ha questi schiacciamenti. È un oggetto molto semplice, un motore molto potente su due ruote, anche se si è arrivati a livelli di sofisticazione, per cui anche lì magari quell'80% si è un po' abbassato. Mario, ti ringrazio, devo andare un po' di corsa, ma è sempre un piacere. Al Brasile. Grazie, alla prossima con Mario Boltronieri. Saluto Antonio da Livorno, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera, volevo porre una... mi chiamo Antonio, chiamo da Livorno. Sì. Volevo porre una domanda al signor Poltronieri che ho appena salutato. Provi a lasciarla lì nell'aria lo stesso, magari rispondiamo. Sì, va bene, va bene. Dica. Dunque, la domanda era la seguente. La Formula 1 oggi come è gestita, come è organizzata, come è seguita, io credo non sia più lo sport che amavamo tanti anni fa. La Formula 1 è oggetto di attenzioni commerciali, unicamente commerciali. Non c'è più ricerca, non c'è più tecnologia. Tutto sommato a chi gestisce la Formula 1 interessa fondamentalmente che di volta in volta vinca una marca diversa, che di volta in volta siano posti dei successi in circuiti strani, circuiti che abbiano delle valenze commerciali nuove. Beh, certo, Antonio, tutto sommato, in fondo è il discorso che stavamo facendo, no? Quindi la risposta l'abbiamo data prima ancora della domanda. È evidente che la Formula 1, così com'è strutturata, è alla ricerca disperata di un minimo di incertezza e di spettacolarità. Si è parlato, ne avrà sentite anche lei, di tutti i colori, di bagnare i circuiti, e poi è evidente di tutte le diavolerie elettroniche ed aerodinamiche che hanno reso questo sport ormai molto noioso, e quindi di lì si va alla ricerca, si raschia il barile su mercati che possono dare ancora qualcosa in termini di denaro. Discorso interessante su cui certamente torneremo. Adesso però cambiamo argomento e andiamo sul surf, non sul calcio come immaginavate, perché sul calcio andremo invece dopo il GR delle 17. C'è non solo il mondiale di Formula 1 che si sta chiudendo, ma anche un mondiale di surf in Italia. Ne abbiamo parlato molto, torneremo a parlarne molto, e lo facciamo anche subito con Riccardo Belli, che è l'organizzatore titolare di Reset, presidente di Reset, agenzia organizzatrice sul fronte italiano insieme alla ASP, cioè l'associazione dei surfisti professionisti. Ciao Riccardo. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Sai che prima nel corso del traffico sentivo raffiche di vento sulla Liguria e pensavo a questo mondiale di surf. Il tempo del mondiale è iniziato il 10 di novembre e ci sono giorni davanti fino al 20 per arrivare a fare questa gara che ancora non è stata disputata. Sì Carlo, dici bene. Per fortuna i 32 più forti, l'hawaiano De Soto, il francese Del Pero, hanno avuto modo di provare le onde di Levanto due giorni prima dell'inizio dell'evento e sono rimasti strabiliati dalla potenza di questo mare in questo spot meraviglioso di Levanto. C'è un problema ora, che tu conosci bene, ne abbiamo discusso a lungo, che l'onda adesso non c'è, il mare è piatto, si fanno tantissime attività, abbiamo avuto modo di fare dei jeep ride meravigliosi, abbiamo fatto vedere che cosa realmente è successo, sono stati davvero colpiti i surfisti dall'alluvione, e quello che è successo è anche la voglia di rinascere da parte di tutti, da tutto il popolo alluvionato della Liguria. Abbiamo fatto un meeting oggi, ritorniamo alla gara, abbiamo fatto un meeting oggi con il responsabile di ASP, in capo a tutti, Vico Hammel, che è il contest director. Ci prendiamo 48 ore di tempo, martedì a luna ci rincontreremo per capire, perché sembra che arrivino queste onde alla fine settimana. Oggi c'è un 50% di possibilità, così abbiamo concluso il meeting. Speriamo che salga la percentuale in modo da riuscire a vederli davvero in un contest e non solo in una free expression. Certo, quindi sono tutti lì, i 32 più forti surfisti del mondo stanno aspettando l'onda, come penso sia normale anche da altre parti del mondo, in attesa di un mondiale, stanno aspettando l'onda giusta. E la gara, così stando alle previsioni, ci dici, dovrebbe tenersi nel prossimo weekend. Diciamo, se diamo una percentuale del 50%, secondo tutte le... Io mi esprimo secondo quello che mi viene detto, perché lungi dall'essere un esperto. Però qui abbiamo anche, oltre ad avere i 32 più forti surfisti al mondo, abbiamo anche tutti i più grandi esperti di meteo al mondo, perché sono quelli che poi, da cui deriva la decisione del contest director. Così è stato detto e questo per me fa fede. Questo fa fede e naturalmente torneremo sull'argomento mondiale, perché li seguiremo da vicino questo evento che è storico, come sapete, l'abbiamo già detto molte volte, il primo mondiale longboard di surf in Europa, con appunto i 32 più forti del mondo guidati dall'hawaiano Dwayne De Soto, che è veramente un mostro. L'altro giorno, tra l'altro, Riccardo Belli diceva di queste onde che, perché il tempo è così, fa quello che vuole, le onde che il giorno prima dell'inizio ufficiale dei mondiali erano altissime, potentissime, tanto che hanno spaccato un sacco di tavole con numeri da circo veri. Io ringrazio Riccardo Belli e noi ci fermiamo un attimo qualche minuto, perché c'è un GR e in questo momento i GR sono estremamente importanti e seguiti, ma dopo torniamo per parlare di sport. Eccoci tornati per un'ora almeno fino alle 18, poi dovremo restare insieme fino alle 19 come ogni domenica, però vi torno a ricordarvi che è in programma, quando la cronaca lo renderà necessario, uno speciale sulla situazione politica da questi microfoni con Sebastiano Barisoni e Alessio Maurizi. Intanto siamo qui per parlare insieme, 800 24 00 24, numero verde. Vi do per la cronaca i finali di B, dall'anticipo la Regina ha battuto 2-1 la Nocerina, quindi l'Ascoli ha vinto 1-0 a Brescia, 2-2 tra Cittadella e Livorno, il Varese ha distrutto il Grosseto sul suo campo 5-1, Sassuolo ha vinto a Gubbio 1-0, 2-2 tra Juve Stabia e Albino Leffe, 2-0 dell'Empoli a Modena, la Sampdoria sempre più giù, perde in casa 1-0 con il Vicenza, il Verona batte 2-1 il Crotone, il posticipo di questa sera 20:45 è Torino-Bari. Mi frulla in testa un argomento che già ieri avevo voglia di affrontare, oggi lo faccio con maggiori nozioni. Silvio Berlusconi esce dal campo e la cronaca la conoscete, dopo una partita che è durata non 90 minuti ma quasi 18 anni. Quando entrò in campo Silvio Berlusconi, quel 26 gennaio del 94, ancora non sapeva che il suo Milan in quella stagione avrebbe vinto Scudetto e Coppa dei Campioni con il famoso 4-0 di Atene sul Barcellona dei presuntuosi Cruyff e Romario. In molti motivi e per molte ragioni la carriera politica di Silvio Berlusconi si è intrecciata in maniera stretta con l'andamento del suo Milan. Adesso ci sono molte domande nell'aria, molte domande molto più importanti su argomenti che decisivi per la nostra vita quotidiana, però in fondo alla fila vedo anche i tifosi del Milan con il loro cartellone. Che ne sarà adesso del Milan? Come influirà questa uscita dal campo di Silvio Berlusconi sul futuro del Milan? Io non, una risposta non la so, non ce l'ho. Chiedo aiuto a Furio Fedele, che magari ce l'ha, che ha inviato penna storica del Corriere dello Sport. Ciao Furio. Ciao Giorgio, grazie. Sì, è una domanda legittima, anche se sicuramente il Milan fa parte dei gioielli di famiglia, insieme a Villa San Martino, ad Arcore, e quindi sicuramente sarà forse ancora uno dei motivi di vanto di Berlusconi in questa situazione anche abbastanza complicata della sua vita personale. E vedremo, adesso è chiaro che Berlusconi probabilmente resterà a capo del suo partito, ma sicuramente avrà modo di dedicarsi al Milan un pochino di più, non che la sua assenza si sia fatta sentire, anche perché assenza non c'è stata, perché nel corso di questi 18 anni comunque è stato ben presente in molte delle più importanti decisioni della società di Gattuso. Certo, si è parlato molto, e tu lo sai Furio, nei mesi scorsi, ma anche in tempi vicini, di una possibile cessione del Milan, sempre smentiti in maniera secca dal fronte Mediaset, dal fronte Fininvest. Può tornare d'attualità questo argomento, secondo te? Sì, però ci sono in ballo molti soldi, si parla di una valutazione che può oscillare fra i 600 e gli 800 milioni di euro. E poi ti ripeto, mi sembra che il Milan comunque faccia parte del DNA della famiglia Berlusconi, non è un caso che sia entrata a far parte del CDA anche la figlia Barbara e penso che comunque il Milan è di Berlusconi e farà parte sempre della famiglia. Non so, in questo momento è un po' troppo presto, bisogna anche fare i conti bene perché comunque il Milan ha una gestione importante, sì, e spesso e volentieri, tranne la volta in cui c'è stata la cessione di Kakà, il bilancio è sprofondato in un rosso molto preoccupante. Bisognerà vedere anche come funzionerà adesso tutta l'economia gestionale delle imprese e delle situazioni imprenditoriali appunto del presidente Rossonero. Certo. Furio, invece si parla tanto di mercato e si fanno i nomi più diversi, da superstar, anche se attempate del calcio internazionale come Drogba, a giocatori che in fondo in questo momento sono in panchina nel Catania come Maxi Lopez. Il Milan, secondo te, tenuto conto anche del momento, andrà sul mercato e se sì in che modo? Ma sai, sento parlare di Drogba, ma sento parlare poco di un problema gestionale che ha Drogba. Parteciperà quasi sicuramente alla Coppa d'Africa da metà gennaio a metà febbraio, quindi per un paio di mesi rischi di perderlo, e comunque pur andando in scadenza di contratto con il Chelsea non penso che si accontenti di qualche mese al Milan, dovresti fargli un contratto di un anno e mezzo a 34 anni e questa non è certamente la sua miglior stagione. Per quanto riguarda Maxi Lopez, è vero, probabilmente non eccita molto i tifosi del Milan, ma si tratta sicuramente di un attaccante di buona resa in panchina al Catania perché ha perso Furio Fedele, che gli aveva consentito anche di fare molto bene quei primi sei mesi, vincendo addirittura un derby, sì, per 2-0, il derby contro il Palermo con una sua doppietta. E però si tratta di un buon attaccante e non dobbiamo dimenticare che il Milan pretende un trattamento di assoluto favore, cioè un prestito poco oneroso con eventuale diritto di riscatto e la possibilità di poter gestire un giocatore che non è certo gravato da un maxi ingaggio. Sì, certo. Un'ultima cosa, Furio, che pure mi interessa molto. È stata la settimana del libro di Ibra, delle spacconerie su carta del fuoriclasse svedese. Quanto fastidio ha dato all'interno dell'ambiente Milan questo scritto? Ma no, poco, perché si è parlato poco di Milan, insomma, almeno per quanto riguarda la sua situazione. Pensa, Giorgio, io in questo momento sono a Brescia, ho inseguito in vano Pep Guardiola che ha assistito a Brescia-Ascoli e ovviamente io e gli altri colleghi volevamo cercare di strappare piuttosto qualche commento che in un primo tempo era stato fin troppo diplomatico da parte dell'allenatore del Barcellona. Però sai, in realtà si tratta di un'autobiografia, quella di Ibrahimovic, che al paragrafo Milan ovviamente non è ancora ricchissima di aneddoti e di situazioni magari un po' inquietanti. Ibrahimovic comunque al Milan ha trovato una dimensione che ha continuato a esaltarne le doti di brevetto dello scudetto, perché comunque in 10 campionati spalmati fra Olanda, Italia e Spagna, con Inter, Juve e Milan, ha vinto ben 9 titoli nazionali. Al Milan non penso che abbia dato molto fastidio, piuttosto interessa che Ibrahimovic continui così come ha iniziato, con 9 gol, tutti molto importanti, in una stagione che potrebbe accompagnare il Milan, si spera, oltre che allo scudetto bis, anche ben oltre l'inquietante confine degli ottavi di finale di Champions League. Certo. Furio, ti ringrazio, ti lascio inseguire Guardiola. Grazie a Furio Fedele Guardiola, che oggi era in tribuna appunto a Rigamonti, dove ha visto il Brescia perdere 1-0 con l'Ascoli, ha visto questo gol di Falconieri, che non penso conoscesse, per Guardiola al 34esimo del primo tempo, per la vittoria marchigiana. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, vi aspetto dopo il traffico. Strade in diretta. Lungo la 12 Genova-Livorno ci sono code di circa 2 km a causa di lavori tra Sestri Levante e Lavagna sulla carreggiata in direzione Genova. Traffico in aumento sul resto dei percorsi in direzione delle città, traffico di rientro verso Roma si rallenta sulla diramazione Roma Sud tra Monteporzio, Catone e la Barriera. Sulla 24 traffico rallentato tra Sette Camini e la Barriera di Roma Est. Coda in direzione della Svizzera lungo la 9 Lainate Como Chiasso prima della dogana di Como Brugeda. Circolazione scorrevole per il momento sul resto dei percorsi. Ricordiamo la 14 Adriatica chiuderà per lavori tra gli svincoli di Rimini in entrambe le direzioni dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Don't jump the gun. Don't jump the gun. In Italy it's other meaning, but it's same. I say be careful the cat. Not say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Meraviglioso Trapattoni che avrete certamente riconosciuto col cat in the sack. Ci siamo portati dietro un po' di voci di una settimana che comunque è stata divertente, se vogliamo anche un po' stressante, perché abbiamo anche la voce di Moggi che è stato protagonista della settimana, e so che su questo fronte morite dalla voglia di intervenire, ma siamo qui. 800 24 00 24, ormai abbiamo anche le spalle larghe su questi argomenti. Riceviamo invece la visita telefonica di un bravissimo allenatore, un amico come Attilio Tesserra da Novara. Ciao Attilio, buonasera. Ciao, buonasera, bentrovati. State valutando, io ho dichiarato più volte il mio tifo per il Novara da questi microfoni, ma non perché sei qui o perché sei una squadra estremamente simpatica, perché mi pare una squadra vera costruita nel corso degli anni, il che è una garanzia, che sta valutando e sta soppesando le difficoltà della Serie A. No, intanto ti ringrazio per quanto riguarda la squadra, la simpatia, e che poi ci troviamo, come appena detto giustamente, in un campionato molto importante, difficile, e noi stiamo forse pagando soprattutto all'inizio un po' di inesperienza, che visto che abbiamo mantenuto una parte importante di giocatori che arrivano direttamente dalla Lega Pro. Siamo consapevoli che ci aspettava un campionato difficile, ma però siamo anche sinceramente fiduciosi di poterci stare, stiamo dimostrando di potercela lottare, giocare. Chiaro che noi dobbiamo andare sempre al massimo, e speriamo che magari prima o dopo qualche episodio giri anche un po' a favore nostro, in positivo. Ma pensi che aggiusterete la squadra al mercato? State valutando questa esigenza oppure no? Sinceramente sì, c'è la consapevolezza in tutti, della società e tutto, però io dico sempre che quello arriva dopo, perché da qua il mercato ci sono 7 partite, sono tanti punti in palio, sono 21 punti in palio, e quindi come si arriva anche a quel mercato è molto importante, quindi i punti dobbiamo pensare di farli adesso e non pensare al mercato. Il mercato noi non ci deve distogliere di un nulla su quello che non è il campionato, quello che stiamo giocando ora. Quindi con quella squadra, massima fiducia in questi ragazzi, ripeto che paghiamo qualcosa ma ce la stiamo mettendo tutta, e così dobbiamo continuare con un po' più di fiducia e cattiveria. Sì, pagate qualcosa anche in termini di sfiga, perché all'ultima partita anche la miglior Roma della stagione. Ma l'ultima partita, il calcio è bello perché nella consapevolezza che la Roma è più forte del Novara, perché si fa fatica a dire il contrario, per obiettività. Poi c'è la partita che è la primavera e clamorosa palla gol, abbiamo avuto noi a 20 minuti dalla fine, un minuto prima del gol della Roma, lì un giocatore solo davanti al portiere, facciamo gol e succede esattamente quello che è successo con l'Inter, grande Novara che batte una grande squadra, perché lì poi mancavano 20 minuti e fino a quel momento la Roma non aveva avuto nessuna occasione da rete. Gli applausi sono belli ma non fanno classifica. Esattamente, gli elogi sono belli ma non fanno classifica. Che campionato stai vedendo invece nel complesso, per le avversarie affrontate fin qui? Cosa ti è piaciuto? Cosa ti ha sorpreso? Quello che trovo, che ho sempre visto in Serie A, e quello che ho trovato anche quest'anno in Serie A, cioè non è tanto che qualche squadra ammazza l'altra, ma si gioca su un filo sottile di equilibrio, e poi o una giocata individuale o la squadra un po' più cinica, più esperta, fa sempre del male, con un livello direi medio alto, perché squadre, stiamo vedendo alcune conferme, Milan, alcune ottime, bellissime realtà, Udinese, Napoli, parlo delle ultime, e la Juve sta tornando. Un'ultima cosa, mister, stiamo vedendo anche una bella Italia leggera, questa di Prandelli, che secondo me ha trovato la coppia offensiva ideale, ma qui forse va a questione, va a gusti, perché Pazzini e Balotelli mi sembrano il meglio, assenti compresi, che il calcio italiano sia in grado di esprimere sul fronte offensivo. Poi possiamo discutere di un partner di Balotelli, che però mi pare un giocatore imprescindibile in questo momento per l'Italia. Beh, in questo Balotelli sicuramente si sta calando sempre di più anche nel ruolo di leader in nazionale. Lui le qualità tecniche gli sono state riconosciute da sempre, da giovane, quando ha giocato, non dimentichiamoci, una squadra importante, ha vinto come l'Inter. E poi però c'è la più bella, penso, realtà, la sinfonia che Prandelli sta mettendo in campo, dal suo modo di portare, di guidare la squadra giovane che gioca, che si propone. Cesare lo conosco da tantissimi anni e mi sono reso molto felice quando hanno dato la guida tecnica della nazionale, senza togliere a nessuno, ma ha portato una sua idea e la sta portando avanti, direi, con successo. Sì, poi è interessante che sentir dire la prima nazionale che non gioca contro qualcuno ma gioca per se stessa e per tutti, insomma. Direi di sì, sono bellissime, dico, novità, e speriamo adesso che possa proseguire su questa strada che comunque ha dato un indirizzo ben preciso. Grazie mister. Grazie a voi, arrivederci. Buona grazie, in bocca al lupo ad Attilio Tesserra, allenatore del Novara. Per niente, quest'anno proprio sono troppo contento di essere in Inghilterra. Ha un futuro? Come faccio? Il campionato italiano è calato molto, il campionato inglese è veramente bello. Per adesso io posso guardare il mio futuro in Inghilterra, poi un giorno deciderò. Se un giorno ci fossero le basi per tornare all'Inter, io tornerei anche all'Inter, perché no? Non è un problema. Prima di tutto nessuno mi deve spaccare la macchina se vado in giro a Milano. I tifosi dovrebbero stare tranquilli. E poi deve essere una squadra che punta in alto, però per adesso sto bene in Inghilterra perché siamo forti, quindi non ho bisogno di cambiare. Un po' di Balotelli pensiero, anche questo non è cronaca ma quasi commento della settimana, tanto per gradire, una settimana in cui in linea di massima direi che Moggi e Balotelli sono stati i grandi protagonisti. Che ne pensate? 800 24 00 24, numero verde messaggi, 349 238 6666. C'è qualche milanista secondo cui Maxi Lopez addirittura potrebbe essere una sorta di Milito rossonero, un ottimo acquisto a rapporto qualità prezzo, lo scrive Roberto. Sembra tanto Milito rossonero, poi mi pare che Milito fosse comunque è il principe di Genova, mentre Maxi Lopez da un po' è un panchinaro del Catania, anche se misteriosamente, perché comunque è un giocatore che qualità ne ha e nei primi mesi della sua esperienza italiana l'ha anche dimostrato. Andrea da Roma, buonasera. Buonasera, sono Andrea. Chiamavo perché ascoltandovi ho trovato l'assurdità nel paragonare la situazione politica di Berlusconi con il Milan. Secondo me lo sport è fatto di muscoli, coraggio, voglia di vincere, e non può essere accompagnato da situazioni politiche che riguardano un presidente. Ho capito, però lo sport è fatto anche di quattrini e di potere e di visibilità e di cose di questo tipo, e io credo che comunque il Milan sia stato importante, ma questo non è una non c'è malizia nella mia affermazione. Se il Milan sia stato importante anche nel delineare la carriera di Silvio Berlusconi come imprenditore e come uomo politico vincente. È esattamente questo che intendevo dire. Il Milan è stato importante a delineare Berlusconi, non Berlusconi a delineare forzatamente Milan e squadra e calcio. Sì, ma non se la continuiamo a pensare in questa maniera, non la seguo però. In che senso? Berlusconi non è stato importante per il Milan? Se noi continuiamo a pensare, credo io, nel mondo dello sport in generale, che un marchio, una persona, un simbolo vinca sempre, non c'è più la noble art, come si vuole intendere. Non ha vinto sempre, ha vinto e ha perso Berlusconi con il Milan, ha vinto molto, ha perso un po', ci sono state stagioni in cui il Milan non era all'altezza, c'è stata la fine di un ciclo, c'è stato Tabarez e Terim, c'è stato Zaccheroni mal sopportato e licenziato proprio da Berlusconi, come ben sappiamo nel 2001, dopo la partita col Deportivo, c'è stato un ciclo, insomma, poi un altro ciclo, quello di Ancelotti, e poi c'è stata molta visibilità, ci sono stati colpi di mercato ad effetto, c'è stato un intreccio che è innegabile, mi pare, e c'è stata un'importanza comunque che dal punto di vista dell'immagine il Milan vincente ha avuto per Silvio Berlusconi. Che poi Berlusconi non c'entri nulla nelle vicende del Milan, beh, questo mi sembra abbastanza ridicolo, perché mi risulta che comunque il Milan sia stato fatto da Silvio Berlusconi con i suoi quattrini, con la sua passione anche, se vogliamo. Roberto Tortona, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Ascolti, io volevo parlarle di Calciopoli. Dopo le sentenze di primo grado di Napoli, non le pare che ci sia una contraddizione di base sul fatto che la Juventus chiede indietro i due scudetti, però non riconosce Moggi, qual era il direttore generale di quella Juventus? Sì. E poi un'altra cosa, Della Valle credo che abbia passato tutta l'estate a chiedere invanamente spiegazioni a Moratti. È come se vanno a rubare in casa mia, vengono a rubare, poi io devo dare spiegazioni che mi sono venuti a rubare. E adesso non dovrebbe darne lui di spiegazioni, dopo che è stato condannato anche lui? Cosa ne pensa? Grazie. Grazie a lei, ne penso che questa vicenda non finirà mai. È chiaro che la Juventus ha preso le distanze da Moggi, mi aspetto che così, in linea di massima, finisca anche questa battaglia sulla restituzione degli scudetti, perché non è pensabile che Moggi abbia agito in proprio, pur essendo alle dipendenze di un club, e dunque io mi aspetterei che questa vicenda potesse anche finire lì, cosa che naturalmente non accadrà. Quanto a Della Valle, più tardi ne parliamo con calma e con un ospite che ha delle opinioni precise a riguardo. Sappiamo come la fine. Io non condivido questa storia della difesa sostenuta dai Della Valle a ripetizione. Ci siamo difesi in un sistema che era governato da Moggi, cioè era un sistema che non andava bene, perché secondo me non è allucinante che in un sistema sportivo ci siano questi intrecci e queste collusioni tra chi amministra la giustizia sul campo e quelli che ne sono gli amministrati. Dunque aspettiamo anche spiegazioni da parte della Fiorentina e di Della Valle dopo il comunicato stampa, ma anche le dichiarazioni molto dure di ieri di Andrea. Stefano da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io invece volevo parlare dell'intervento che ha fatto prima il suo collega Fedele, se non sbaglio, vero? Sì, Furio Fedele. Sì, allora, intanto io penso che i tifosi del Milan, giustamente loro guardano i loro interessi, si staranno preoccupando, ma io penso ai dipendenti della Fininvest che si devono preoccupare di più, perché da quando c'è stata la sentenza che ha costretto Berlusconi a restituire il Maltocco a De Benedetti, ci sono dei problemi che in questo momento dell'Italia, di una crisi così profonda a livello mondiale, forse il tifoso del Milan dovrebbe magari rassegnarsi, come noi tifosi di altre piccole squadre per anni non abbiamo vinto niente, forse se Berlusconi si disinteressa un po' del Milan, cosa che tra l'altro non credo farà, non credo che sia questa la tragedia. No, ma guardi Stefano, non è questione di tragedia o di disinteresse, sa bene che la domanda è legittima, che ne sarà del Milan, la domanda è legittima, perché sappiamo come... Certo, insomma, è legittimo anche domandarsi cosa sta succedendo ai dipendenti fini, a prescindere da quello. Questo è indubbio, ci sono problemi estremamente più importanti. Noi infatti non c'è dubbio, dica. No, mi scusi, no, le stavo parlando sopra, non volevo. E poi un'altra cosa che mi ha colpito è questo: da tifoso della Roma, adesso anch'io guardo il mio orticello, no? Mi piace sentire come si minimizzi queste sbrasonate, come diciamo noi, di Ibrahimovic, perché quello che lui ha scritto, quello che ha detto anche il vicepresidente del Barcellona quando ha riferito che c'è di peggio, che ha minacciato di picchiare Guardiola in conferenza stampa davanti a tutti i giornalisti se non veniva ceduto al Milan, però siccome l'ha detto Ibrahimovic, che in questo momento sta al Milan, che comunque in Italia giocando nella Juve, nell'Inter e nel Milan, cioè il vero potere, si minimizzi tutto, però si tende a ricordare anche se un giorno Totti di 24 anni fa magari dal passeggino ha fatto l'occhietto a una bambina che incrociava nel passeggino a fianco. Cioè, ci rendiamo conto che a volte tutti quanti noi tendiamo a usare due pesi e due misure in una maniera talmente sfacciata che poi l'ascoltatore spesso non ha voce in capitolo, però ragiona con la sua testa. L'avesse fatto Totti, secondo lei, il signor Fedele, che io non ho il piacere di conoscere, sì, avrebbe utilizzato lo stesso tono così smorzato? Cioè, Milan. No, guardi Stefano, io semplicemente ho chiesto com'era stato vissuto all'interno della squadra, all'interno dell'ambiente Milan, e quanto fastidio avesse dato questa pessima figura che Ibrahimovic ha fatto, ma ha deciso di darsi questa immagine da spaccone, da bad boy, da ragazzo di strada, magari per fare quattrini con la biografia, magari per così costruire in questi termini la sua immagine, che non è esattamente, anzi che non è per nulla quello di un modello per nessuno. Io penso che gli sportivi non debbano essere dei modelli per nessuno. Quando mi si dice lo sportivo è modello per i bambini, no, sta a chi educhi i bambini, far capire che se uno è un maleducato, a prescindere dal fatto che possa giocare bene a pallone. Quindi non mi sembra nemmeno che si sia fatto poco rumore intorno a queste anticipazioni del libro, a queste dichiarazioni di Ibrahimovic, a questi attestati di maleducazione. È un personaggio così, certamente non è un personaggio, non un giocatore, non è un personaggio positivo, è un personaggio che tiene a darsi questa fama e questa immagine da ragazzaccio, ma non mi sembra che si sia minimizzato da nessuna parte. Insomma, mi sembra che in questa vicenda la brutta figura l'abbia fatta Ibra, e mi spiace, perché comunque è una questo non toglie nulla alla grandezza del giocatore. È un grande giocatore ed è un ragazzo anche un po' maleducato. Ci fermiamo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. In data odierna veniva ritrovato furgone incustodito contenente pacchi 4, spazio, materassi 2, spazio, peluche gigante 1, spazio, armadio 3 ante 1, spazio, computer 3, spazio, cabina doccia 1. Nissan NV200. Tra tante cose, ancora tanto spazio. Scegli Nissan NV200, il compatto che ti sorprende con un carico di 2 euro pallet in 4,2 metri cubi di spazio. Tuo a tasso zero in 4 anni. Offerta valida fino al 30 novembre. TAEG 2,17%. Spazio. Posso? Davvero posso dire una cosa al mio capo? Ok. Caro capo, perché dopo tutti i meeting, i planning, i briefing, non mi mandi a fare un po' di shopping? Magari per Natale, magari con Ticket Compliments, il buono acquisto che mi permette di scegliere il mio regalo preferito. Magari. Così semplice, così geniale, da Eden Red, l'inventore di Ticket Restaurant. www.compliments.it. Allora, le montagne ci sono. Certo. La neve? C'è. Le piste? C'è l'imbarazzo della scelta. E le terme? Una meraviglia. Hotel, appartamenti, chalet? Tutto alla grande. E mi raccomando, il sole. Ci mancherebbe. Ah, un'ultima cosa, la Lombardia qui c'è? No, la Lombardia non c'è. Ah, allora niente, grazie. In Lombardia le montagne hanno tutto, ma soprattutto hanno la Lombardia. Lombardia, dove tutto lavora per il tuo relax. www.relaxinlombardia.it. Buongiorno, sono Christian Boiron, presidente del gruppo Boiron. Il nostro medicinale per i sintomi influenzali è numero uno in Francia ed è presente in 60 paesi nel mondo. Sai perché? Perché risolve i sintomi rapidamente. È omeopatico e quindi senza effetti collaterali, così può essere utilizzato da tutti. Parlane con il tuo medico o il tuo farmacista. Scegli anche tu Boiron, leader mondiale dell'omeopatia. Azienda familiare da oltre 80 anni, con più di 4.000 persone nel mondo. Sintomi influenzali? Prova l'omeopatia. Con Enel Solar, dal 16 al 19 novembre, Milano diventa capitale delle energie rinnovabili e della green economy. Impianti solari fotovoltaici e termici, cogenerazione, geotermia, biogas, auto elettriche e tanto altro ancora. Dal 16 al 19 novembre a Fiera Milano, www.enersolar.biz. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Ancora un po' di nubi al sud, con qualche goccia di pioggia soltanto tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale. Nuvole alternate a sprazzi di sereno sulle restanti regioni meridionali e sul Molise, ma senza piogge. Bello nel resto d'Italia, ma con banchi di nebbia nelle prime ore del giorno sulle pianure del nord-ovest. Farà piuttosto freddo a inizio giornata, specialmente al centro-nord, con minime in molti casi vicino allo zero. Temperature massime senza variazioni di rilievo, ancora relativamente miti per il periodo. Per maggiori dettagli consultate meteo.it. E con questo è tutto. La tua azienda può avere grandi opportunità di crescita in Italia e all'estero, ma un imprenditore non può occuparsi di tutto. La migliore strategia per crescere? Dotarsi di un export specialist Comarc. Chiama Comarc 800-123-640. Centinaia di aziende di successo lo hanno già fatto. L'export specialist Comarc trova clienti, agenti, rivenditori e distributori in tutto il mondo e in pochi mesi svilupperà il tuo business al tuo fianco. Comarc 800-123-640. Comarc ti fa crescere. www.aziendedisuccesso.it. Design e prestazioni senza compromessi. Infiniti FX Diesel, tua a soli 599 euro al mese. Offerta valida fino al 31/12/2011. Vai sul sito infiniti.it o chiama l'800-764-765. A cominciare da oggi c'è Infiniti. Pochi secondi alla partenza su questo circuito davvero impegnativo. Ma che succede? I piloti scendono dalle auto e vanno in bicicletta. Non è detto che per lavorare in sicurezza si debba rinunciare alla competitività. Scoprilo nei seminari SIS, sviluppo imprese in sicurezza, organizzati in tutta Italia da Confindustria, INAIL, Fondirigenti e Federmanager. Una nuova cultura della sicurezza come risorsa per lo sviluppo. Vieni in Confindustria a scoprire come si fa. A Brescia, venerdì 18 novembre, sviluppo imprese in sicurezza. E finalmente si torna in gara. Info su confindustria.it. 89 24 24. Domanda: hai a cena un amico con la fidanzata che mangia solo cibi biologici, cosa fai? Spero che lei lo lasci prima delle 8. Oppure? Chiedo l'89 24 24 un negozio specializzato. Giusto, per info su costi 89 24 24.it. Sentiamo, e dove l'avresti incontrata stavolta? In una filiale ING Direct. Dove? Non farci ridere. ING Direct è una banca online. Ma no, hanno aperto le filiali. Sì, le filiali. Sì, le filiali. Credeteci, da oggi ING Direct ha anche le filiali. E conto arancio è sempre a zero spese. Apri conto arancio e prendi il 4,20 sui depositi fino a 100.000 euro per 12 mesi. Valido per i nuovi clienti che attivano conto arancio e aderiscono all'opzione arancio più entro il 31 dicembre 2011. Pubblicità. Per i fogli informativi chiama l'848-852-852 o vai su ingdirect.it. Ciao Fax, come va? Sempre peggio Legal Mail. Ormai tutti vogliono la posta elettronica certificata. E su internet possono avermi subito. Per l'impresa novembre arrivano pure le scadenze di legge. Correte allora su legalmail.it. È un prodotto InfoCert. A tempo di sport. Nemmeno il tempo della doccia Gianluca Astori è stato esonerato dalla Sampdoria, dall'altra parte era in bilico e la sconfitta con il Vicenza è stata una sentenza. Martedì l'annuncio del successore e i favoriti, si dice, sono Donadoni e Iachini. C'è anche chi scrive via SMS: viva Ibra, quante volte avremmo voluto dire ti spacco la faccia al capo e non l'abbiamo detto per convenienza, eccetera. Lui se lo può permettere e fa bene. Beh, sul fatto che fa bene non saprei, caro Corrado da Parma. Certamente si è costruito, ha voluto costruirsi, magari anche per ragioni di marketing, questa fama da bad boy e a costo di apparire qual è un po' sbruffone, anzi molto sbruffone, un po'... cafone, un po' maleducato, un po' così ragazzo di strada, vuole apparire così. Che questo sia un bene non saprei. I personaggi eleganti sono altri, che Ibra sia un personaggio è indubbio ed indiscutibile. Non è nemmeno l'unico o l'ultimo tra gli sportivi mondiali a volersi appunto costruire un'immagine di questo tipo. Ricordo il primo che mi viene in mente è Dennis Rodman, le sue molte biografie di non eccelso livello letterario. Ricordo una che iniziava con: ero seduto una notte di Natale davanti al palazzetto dello sport di Detroit, ero seduto sul mio pick up con un fucile a pompa accanto e stavo decidendo se farla finita oppure no. Ho deciso di no, sono entrato e ho cominciato a far pesi. Grosso modo cominciava così una delle tante biografie autobiografie di Dennis Rodman. Marco da Pavia, buonasera. Buonasera Carlo. Dica. Dunque, secondo me va sottolineato comunque una corresponsabilità in questi atteggiamenti un po' da sbruffone di Ibrahimovic della società, che secondo me non si espone. Mi spiego meglio. Il Barcellona, ad esempio, quando tessera alcuni giocatori, anzi tutti i giocatori, devono contribuire col 50% dei propri introiti legati a quello che deriva dal marketing, vale a dire se uno fa una biografia va da sé che venderà di più nel momento in cui gioca al Barcellona piuttosto che se gioca all'Udinese, no? Sì. Per cui diciamo che la società Milan non è mai intervenuta quando Ibrahimovic si è atteggiato da sbruffone con Arrigo Sacchi, quando che ha fatto la storia del Milan, gli permette di pubblicare certe biografie che non fanno bene al calcio, soprattutto al calcio italiano, che già non è in un momento particolarmente diciamo florido. Beh, ma più che altro non giovano all'immagine di Ibrahimovic, perché qui la figura di una figura di questo tipo, cioè un personaggio di questo tipo, se lo cuce addosso Ibrahimovic, no? Non, quindi penso che il calcio italiano non venga granché toccato, certamente non giova all'immagine del Milan, che magari lei ha ragione, è poco attento, è stato poco attento, stranamente, se vogliamo, a problematiche di questo tipo, anche da un punto di vista così di legale, se vogliamo. Secondo me questa la brutta figura, se vogliamo, la fa Ibrahimovic, non la fa tanto il Milan, non la fa il calcio italiano, non ha, soltanto lui, perché ha deciso di cucirsi addosso questa fama, questo vestito da personaggio da cattivo ragazzo. Quindi la cattiva figura la fa lui. Il calcio italiano direi proprio di no, al Milan, per il Milan certamente può essere un elemento di fastidio. Grazie Marco. Mirko invece da Milano, buonasera. Buonasera. Vabbè. Io volevo riprendere in mano il discorso Calciopoli. Secondo me Calciopoli è stato un processo comunque tutto sommato mediatico, o meglio, nel senso, a prescindere dalla responsabilità di Moggi, Giraudo e Bettica, che comunque hanno avuto le loro responsabilità. Mi permetto di interrompere, è stato un processo mediatico, sì, come ogni grande processo italiano. Sì, certo, però hanno dovuto trovare per forza subito dei colpevoli per dimostrare comunque all'opinione pubblica che comunque loro erano stati bravi e veloci a trovare comunque dei colpevoli. Lei sta parlando di giustizia sportiva? Sì, giustizia sportiva, nel senso, perché comunque Moggi ha fatto quel che ha fatto ed è assolutamente, però secondo me anche gli altri non erano così illibati come hanno cercato di far credere. L'unica cosa che secondo me bisognerebbe fare adesso, bisognerebbe cercare di chiudere questo brutto capitolo del calcio, che secondo me non è così tanto finito. Cioè, adesso hanno trovato il capretto da espiare, che è stata la Juve. Gli hanno dato tutto quello che l'hanno estirpato completamente dal calcio per 4-5 anni, adesso sta cercando di risorgere sulle proprie ceneri, e quindi comunque, perché comunque la Juve era una squadra che comunque vinceva, poi a prescindere da quello che succedeva negli spogliatoi con l'arbitro, comunque era sotto gli occhi di tutti che comunque la Juve aveva del gioco, aveva dei giocatori di qualità. Sì. E la qualità non la fai di certo con l'arbitro, ci possono essere magari dei rigori contro e dei rigori a favore, ma comunque sì, la qualità tecnica, ma questo è chiaro, Juve. Ma la Juventus, Marco, Mirko, la Juventus era comunque la squadra più forte, forte, certo è che non è legale quanto è stato fatto per garantirgli, assolutamente, però loro hanno fatto bene a condannarla. La Juventus non ha vinto perché c'era Moggi, la Juventus ha vinto perché c'era più forte e Moggi ha spianato la strada, casomai ci potessero essere delle difficoltà, esatto, no? Diciamo, ha tolto qualche eventuale difficoltà, ma diciamo questo è illecito, però questo è illecito e illegale, come lei dice, mette un po' insieme le due cose, no? La sommarietà di questo processo, il fatto che sia stato un processo mediatico, sono d'accordo, i tempi stretti alla giustizia sportiva sono fisiologici, perché come sappiamo la giustizia sportiva decide sulla base degli elementi che ha, con un sistema probatorio, un sistema di ricerca delle prove, che non può essere fatalmente quello di un procedimento ordinario, ma mi sembra che in questo caso, alla fine, in questa vicenda particolare, il procedimento ordinario con i suoi esiti abbia dimostrato come la giustizia sportiva non fosse poi andata molto lontana dalla verità, no? Mi pare di capire. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo c'è Claudio da Milano, 800 24 00 24. Noi, ricordo, siamo in attesa di capire e quindi dire, quindi annunciare quando inizierà lo speciale. Questo non lo determiniamo naturalmente noi, ma lo determina la cronaca con le consultazioni che terminano alle 18, e noi di Radio 24 vi offriremo tempestivo speciale con Sebastiano Barisoni più tardi, poi vi saprò anche dire quando. Pubblicità. Anche nei momenti più difficili c'è un porto sicuro per i tuoi risparmi. Conto deposito di Che Banca. ti dà il 4% fino al 15 dicembre 2011 sulle somme depositate per un anno. L'importo degli interessi è in anticipo e la tassa è già al 20% anziché al 27% per tutti i vincoli in scadenza dopo il 31 dicembre 2011. Fogli informativi su chebanca.it. Più tasso, meno tasse. Che Banca, Gruppo Mediobanca. Strade in diretta. Lungo la 7 Milano-Genova ci sono code a causa di un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 in direzione del capoluogo ligure, con ripercussioni anche per chi proviene dalla 12. E proprio sulla 12 Genova-Livorno ci sono code di 3 km per lavori tra Sestri, Levante e Lavagna sulla carreggiata in direzione Genova. Traffico in aumento sul resto dei percorsi in direzione delle città. Verso Roma code a tratti sulla 24 per lavori dopo un incidente tra Carsoli, Oricola e Vicovaro Mandela. Proseguendo traffico a rilento dalla barriera di Roma Est, rallentamenti verso la capitale anche sulle due diramazioni dell'Autosole. Verso Milano code tra Pero e Cormano sulla 4, rallentamenti sull'Autosole tra San Giuliano e l'innesto per la tangenziale ovest e sulla 8 tra Busto Arsizio e Legnano. Code verso la Svizzera sulla 9 prima della dogana di Como Brogeda. Non ci sono altre segnalazioni per il momento, è tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Tempo di sport. Anche Ornella, ascoltatrice, che vorrebbe sapere, lo domanda via sms, qualcosa in più sulla finale del torneo di Parigi Bercy di tennis vinto da Federer oggi contro il francese Tsonga. Beh, partita semplicissima nel primo set per Sua Maestà Roger, 6-1, quindi tie break nel secondo set, 7-6 per Federer, 7-3 al tie break, e così Federer diventa secondo giocatore dopo Agassi a centrare il successo nei tornei parigini, quindi Roland Garros e ora Parigi Bercy Master 1000. Secondo Paolo, Trapattoni batte Ibrahimovic 5-0. Sì, sono in linea di massima, sono d'accordo, perché comunque la simpatia del Trap resta imbattibile, così come secondo alcuni, per me non è così, però può essere l'antipatia di Ibra. A me Ibra non è antipatico, certo è uno spaccone, uno sbruffone, uno che non so neanche quanto ci sia o ci faccia, in tutta onestà. Certamente non ha fatto una bella figura, non fa una bella figura con questo comportamento e atteggiamento da bullo del quartiere che si è dipinto addosso insieme ai 1000 tatuaggi. Claudio da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera. Senta, io le pongo un paio di questioni un po' spinose sulle quali ho riflettuto da tempo. Premetto che sono un interista doc. Sì. Però, voglio dire, io sono una persona, spero, intellettualmente libera. Sì. Allora, io le volevo porre questo quesito. La riflessione che io ho fatto è stata questa. Scompare Giovanni Agnelli e io dico a me stesso e dico ad alcuni amici, non passa molto tempo che la Juve ne subirà dei pesanti contraccolpi. Passano 2 anni e scoppia il caso Moggi. Secondo problema, tutti quanti hanno sempre Moratti, il grande Moratti che ha speso tanti soldi, poverino, detto un po' così, ma un po' un fessacchiotto, uno che spende. Allora, personalmente penso che Moratti sia una persona molto intelligente e che abbia sempre fatto i suoi calcoli della serie. Finisce allora. Però Claudio, mi permetta di dire, se ha fatto i suoi calcoli in qualche caso li ha anche sbagliati, perché lei si ricorderà comunque un Inter e un Moratti che ha speso molti soldi costruendo non grandi squadre nei primi anni della sua presidenza, perché non mi venga a dire che comunque l'Inter era una grande squadra nonostante i molti denari spesi. Ora non mi dica che l'Inter non vinceva quegli scudetti perché c'era il grande male, il grande nemico dall'altra parte. Non vinceva gli scudetti perché non era attrezzata per vincerli. La squadra è assolutamente inferiore alla Juve. e anche al Milan e anche alla Roma. Sì. Sono assolutamente d'accordo io su questa analisi, per l'amor di Dio, infatti io do un'interpretazione diversa, nel senso che io do questo tipo di interpretazione: lui comprava uno o due giocatori di grosso nome, poi la squadra era quella che era, sì, e la squadra perdeva. Quando lui, durante Calciopoli, riesce a comprare in saldo tutta una serie di giocatori, riesce a vincere. Questa è la mia analisi. Sì, dopodiché anche con Milito, anche con Mu, sì, che è un gigante, Mu, sì, è stato un gigante, sì, perché ha tenuto a bada un personaggio come Moratti, anche con Mu lui che cosa gli compra? Gli compra apparentemente quello due che gli compra, Genova, quello che faccia finire, gli compra no, la faccio finire, ma ho capito il discorso. Beh, insomma, due giocatori del Genoa che avevano fatto una grande stagione e che comunque hanno consentito all'Inter di vincere anche una Champions League insieme al grande affare Eto'o Ibrahimovic, che lei ben si ricorda. Non è che Moratti ha preso Mourinho ciò che Mourinho voleva, gli ha rubato la scena mediatica, gli ha preso i giocatori che voleva, ha vinto tutto, è andato via Mourinho, Moratti è tornato al centro del palcoscenico, eccetera eccetera, è cronaca o storia recente comunque. Ringrazio l'ascoltatore e saluto un altro ospite importante, visto che approfittiamo di questa domenica di pausa per parlare un po' col calcio italiano, prima Tesser e ora Gaetano D'Agostino, centrocampista del Siena. Buonasera, ciao Gaetano. Buonasera a voi. Siete una squadra che gioca molto bene a pallone, secondo me. Ne ho parlato un paio di settimane fa con il tuo allenatore. Non so se porti ancora quelle magliette stravaganti che usava a Varese oppure no. No, ancora no. Ha fatto il salto di qualità. Ti stai divertendo a Siena? Sì, mi sto divertendo, anche perché veramente dopo 2-3 anni ho incontrato un gruppo meraviglioso e una società che mi sta facendo risentire un giocatore importante, quindi quando hai delle sensazioni così positive non puoi che fare bene, oppure sicuramente allenarti tutti i giorni con la passione che avevi prima. Senti, ti faccio una domanda difficile: quanto pensi ancora a quell'estate in cui dovevi andare alla Juve o al Real Madrid e poi Pozzo ti tenne all'Udinese, eccetera? Quanto ci pensi ancora e quanto ha influito sulla tua carriera? Credo tanto. Hai qualcosa da rimproverare a qualcuno per quell'estate? No, assolutamente no, perché se sono qui e ringrazio Dio, perché se no non avessi vissuto l'esperienza negativa che mi ha diciamo, fatto stare 2 anni, non dico stand by, però mi ha fatto vacillare un po', non rendendo al massimo. Però questi 2 anni mi sono serviti per maturare, mi sono serviti per aprire più gli occhi in questo ambiente dove non è scontato niente. E quindi ringrazio di essere venuto a Firenze e di indossare la maglia del Siena. Io la penso sempre in maniera positiva. E fai benissimo. E non rimprovero nessuno, perché è stato un anno dove ho fatto la grande, dove mi ero consacrato ad alti livelli, dove ho raggiunto la nazionale, quindi è normale che poi il cartellino è andato alle stelle. Però, certo, ripeto, se è una società come l'Udinese che ha venduto Sanchez a tanti milioni di euro, Quagliarella, era giusto in quel momento che valessi tutti quei soldi perché avevo fatto bene. Poi stava la Juventus a accettare o non, quindi all'Udinese non rimprovero niente assolutamente. A me neanche, perché io faccio il mio dovere. Certo. E neanche alla Juve, perché poi ha fatto una scelta alla fine, quindi il calcio è così, andiamo avanti. A 29 anni e ora stai dicendo sono ritrovato nel Siena, ti sei posto qualche obiettivo, ad esempio guardando giocare questa nazionale di Prandelli? Ma l'obiettivo è sempre quello, che io parto dal presupposto che fare la grande con il club, fare bene il campionato, perché poi è tutta una conseguenza della nazionale, è una conseguenza di altri club che ti guardano, è una conseguenza di vittorie e di traguardi che raggiungi con il proprio club, quindi dare il massimo nella squadra di appartenenza penso che sia la base, il punto di partenza per poi ambire o per poi raggiungere altri obiettivi. Io ti ringrazio Gaetano. Grazie a voi. È stato un piacere mio. Un abbraccio, grazie a Gaetano D'Agostino, in bocca al lupo naturalmente. Ora ci fermiamo per il giornale radio e poi proseguiremo con il nostro programma finché la cronaca non imporrà l'inizio dello speciale molto atteso, cioè quella sulla quello sulla situazione politica che si va delineando dopo le consultazioni che comunque stanno per finire, perché la deadline è prevista per le 18. In attesa dello speciale sulla situazione politica, tra poco, non so dirvi quanto, mi raggiungerà Sebastiano Barisoni, toccherà lui condurre questo speciale. Nel momento in cui terminate le consultazioni, e sono terminate, parlerà Alfano, cosa che mi sembra stia accadendo, dunque tra poco penso cominceremo lo speciale. E allora ecco Sebastiano Barisoni che arriva di corsa e gli cedo la palla.